Allora, buonasera a tutte e a tutti. Nuova puntata di Entropia Massima e ricomincia Emergenza Zero. Emergenza Zero riprende le trasmissioni dopo un paio d'anni di pausa, riportando in radio temi geologici, temi di... cerchiamo di parlare di attualità, ma soprattutto di eventi estremi, cercando di non arrivare mai appunto ad avere emergenze, cose che assolutamente, anche se sono anni che ne parliamo, di emergenze ne abbiamo sempre di più. Questa volta parliamo però di eventi che effettivamente ancora devono succedere, nel senso che abbiamo sempre cercato di non essere sul pezzo, nel senso di non affrontare situazioni dal punto di vista giornalistico quando accadono, ma cercando di analizzare sempre cosa succede, come funzionano ovviamente gli aspetti geologici, gli aspetti naturalistici, gli aspetti di pianificazione territoriale necessari a capire come pianificare al meglio e ridurre il più possibile situazioni di emergenza, conoscendo appunto gli eventi. Ma cercato di analizzare anche a posteriori quali sono stati poi i rapporti fra la popolazione e le autorità locali e come funzionano anche i rapporti umani di chi gli eventi li vive e spesso li subisce. Questa volta invece partiamo in maniera un po' diversa, analizzando e cercando di capire qual è il contesto di una situazione, di un evento che appunto ancora non si è verificato. Andiamo a parlare dei Campi Flegrei, andiamo ad analizzarli con Gianfilippo De Astis dell'INGV e con Matteo Furlan di Roma 3. Andiamo a vedere però prima perché ne parliamo, perché ne stiamo parlando. Lorenzo, perché ci stiamo concentrando su questa zona, che lo sappiamo che è una delle zone a maggior rischio del mondo, rischio vulcanico ovviamente, un po' conosciamo e sappiamo anche che cosa vuol dire rischio, perché ne abbiamo parlato tante volte, ma poi lo ricordiamo magari certo, dopo. Certo, lo ricordiamo. Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute, fratelli e sorelle, compagni e compagni all'ascolto. Questa qui, l'hai detto prima, è il ritorno di Emergenza Zero e Entropia Massima. Perché ci occupiamo dei Campi Flegrei? Perché i Campi Flegrei, che sono, come ricordavi, una delle zone più alto rischio sismico del mondo, anche perché proprio per la definizione di rischio è correlata anche alla quantità di valore esposto, di gente esposta, e lì ci abita un sacco di gente, ed è un'area vulcanica in prossimità, diciamo, di Napoli, che costituisce il confine no, della città di Napoli. E, perché in questi ultimi periodi è tornato a far parlare di sé con un certo numero di eventi che quest'estate ci hanno tenuto compagnia, a noi che magari ci occupiamo più della cosa, siamo stati un po' più attenti, ma a tutti quanti, ed è venuto fuori come tema anche di dibattito politico a un certo punto cosa fare dell'area Flegrea in caso di riattivazione e in caso di eruzione improvvisa. Che è successo? Lo vogliamo percorrere? Più o meno ripercorriamo gli ultimi eventi di quest'estate. Sì, vabbè, nel mese di settembre in realtà ci sono stati parecchi terremoti, ci sono stati 1106 terremoti con magnitudo massima 4.2, e di questi eventi molti hanno avuto, appunto la maggior parte ci hanno avuto magnitudo piccola, però sono bastati per rendere, insomma, risalire l'attenzione su quest'area di cui si sa che è ad alto rischio vulcanico, ma di cui normalmente spesso, anzi, ci si scorda. Una delle, mentre preparavamo la trasmissione, mentre annunciavamo la trasmissione agli amici meno interessanti, cioè meno geologi di noi, molti ci hanno chiesto: scusate, ma se è la zona, perché mentre il Vesuvio, l'Etna o altri vulcani, anche vulcani meno anche vulcani quiescenti, che però a forza di parlarne, per esempio a Roma i Colli Albani, che però rispetto al Vesuvio altri vulcani diciamo estinti o quasi, o comunque su cui c'è dibattito, molti lo sanno, se non altro perché ci hanno sentito parlarne tante volte. Ieri sera durante una cena molti dicevano: ah, i Campi Flegrei, ma perché è pieno di crateri, effettivamente è una zona ad altissimo rischio, ed è lo specchio della conoscenza, e la conoscenza diciamo delle persone che ci stanno intorno è anche lo specchio di quanto nel dibattito pubblico questa pericolosità, questo rischio vulcanico elevato non è poi sempre così presente. Quest'estate diciamo che il numero di eventi e le deformazioni che si sono susseguite hanno rimesso in evidenza la necessità di preoccuparsi di quella zona, e anche messo in evidenza dei limiti del piano di protezione civile, il piano di emergenza associato all'area. Penso che ne parleremo dopo. Tra i giornali è venuto fuori che su molte strade che dovrebbero servire per le evacuazioni ci stanno dei lavori stradali. Ma per curiosità, dopo ne parliamo. Ci siamo guardati il consumo di suolo e il livello di abusivismo nella zona, ed è molto elevato. E quindi la domanda che mi hanno fatto tutti quanti è: se si sa che è così pericoloso, così a rischio, ma perché ci continuano a costruire? Bella domanda. Comunque, in questo momento l'area è in sollevamento, i Campi Flegrei sono, questo l'avevo visto, i valori massimi, ecco, il sollevamento centrale nell'area di Pozzuoli ha raggiunto una velocità massima di quest'anno di 15 più o meno 3 mm al mese da gennaio di quest'anno, a gennaio 2023, quindi si sta sollevando con 15 mm al mese, e il sollevamento registrato dalla stazione GNSS lì è di circa 115 centimetri, quindi 1,15 m, da novembre 2005, di cui circa 82 da gennaio 2016. Nell'intervallo 21-23 settembre si è registrato invece un sollevamento del suolo di 1 cm. Questi elementi di velocizzazione di quel fenomeno di deformazione del suolo, che in quella zona lì è molto noto e prende il nome di bradisismo, tanto da così famoso da essere finito in un sacco di film, compreso quel film di Alberto Sordi dove lo arrestavano tornato, lui faceva tipo l'architetto, l'ingegnere tornato dall'estero, al film di questi terribili di Alberto Sordi, tornato dall'estero al confine, lo prendevano, lo arrestavano, lo buttavano dentro e non gli dicevano nemmeno per quale motivo, e lui soltanto a un certo punto, mesi dopo, anni dopo, ma non mi ricordo il film, scopre che era per appunto perché c'erano stati dei problemi su un edificio progettato da lui, e gli dicevano: ma non ti preoccupare, è stato bradisismo, cioè, quindi addirittura questo nome, che poi vuol dire sisma lento, insomma, dall'etimologia, è passato addirittura nella quotidianità e nella letteratura e nell'arte. Ciò nonostante si continuano a costruire, ed è famoso appunto i resti romani che hanno subito, no, un sollevamento e poi un abbassamento, e si sono allagati nel corso degli anni. E niente, quindi questa accelerazione ha fatto pensare che forse stesse cambiando qualcosa. Ci sono state, si sono susseguite varie in televisione, questo a livello diciamo di opinione pubblica, si sono susseguite varie opinioni e varie interpretazioni su quello che stava succedendo. Una delle cose che è balzata, e ne parleremo fra poco, una delle cose che è balzata in evidenza appunto è il piano di emergenza di Campi Flegrei per gestire questa emergenza. Allora io direi che se vogliamo adesso facciamo una pausa, che dici? Assolutamente sì, facciamo breve pausa prima di passare diciamo al nocciolo più profondo della questione, nel senso andare a vedere qual è la struttura e la storia evolutiva della caldera dei Campi Flegrei, e per poi passare a vedere quali sono invece gli aspetti più recenti dell'evoluzione, e quindi gli scenari possibili, e poi andare un po' a discutere e vedere quali sono i piani, appunto, come diceva Lorenzo, di protezione civile. E quindi passiamo a Napoli Trip, Massive Attack. La voce easy. You need to live and learn to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. That way soda cools my temper. It never cools my temper. Indosso l'ora, stamazza cada una rindanata. Odienda come ovienda, se usce forte ma turbenta si dà già avuta. Ma non mi basta ancora. Rientriamo in voce sugli 87.9 in modulazione di frequenza, onda rossa, questa entropia massima, emergenza zero. Erano i Karma Coma, Napoli Trip dei Massive Attack. Rientriamo a parlare quindi di Campi Flegrei e andiamo con Matteo. Ciao Matteo, benvenuto. E andiamo a vedere invece appunto che cosa sono i Campi Flegrei? Noi come concetto, come sensazione abbiamo questa città di Napoli costruita attorno a un vulcano che però il Vesuvio dà l'idea di pericolosità, della sua presenza si fa sentire, la sua presenza si nota, c'è, mentre in realtà il rischio maggiore, come dicevamo prima, il rischio maggiore al mondo è dato dai Campi Flegrei, che non sono appunto un vulcano come il Vesuvio, un vulcano, poi ci dici tu com'è? È una bella struttura, diciamo, che i Campi Flegrei purtroppo non si vede l'edificio, rimane solo la caldera, anzi abbiamo due caldere concentriche e diciamo quindi non abbiamo un edificio visibile, quindi molta gente magari anche di Napoli che ho conosciuto mi diceva sì, io comunque sto qua ma il Vesuvio sta bello lontano, sì però stai all'interno di una caldera che sono la caldera dei Campi Flegrei. Comunque a parte questo, a parte come è fatto l'edificio, adesso magari ne parliamo un pochettino più in dettaglio, rispetto proprio alla storia eruttiva, storia geologica eruttiva. Che cos'è la storia geologica eruttiva dei Campi Flegrei o comunque di qualsiasi altro vulcano? È lo studio dei prodotti vulcanici messi in posto nel tempo, quindi proprio nelle ere geologiche, ma anche nelle età recenti, abbiamo tutta l'analisi dei depositi che ha eruttato il vulcano, che poi vengono studiati da appunto noi geologi, e vengono messi quindi su una scala cronologica, sia quantità di magari volume eruttato, per capire magari il tipo di eruzione è stata un'eruzione esplosiva, è stata un'eruzione effusiva. E diciamo la storia geologica eruttiva dei Campi Flegrei inizia, diciamo, hanno osservato che ci sono state delle lave antiche di 2 milioni di anni fa in un pozzo vicino ai Campi Flegrei, che però appunto indica quindi un antico vulcanismo molto molto più antico, mentre quello che invece si è datato con i depositi insomma più antichi che hanno trovato, quindi depositi piroclastitici si chiamano, o ignimbriti, è di 80.000 anni fa. Quindi diciamo rispetto a 2 milioni sono davvero tanti ordini di grandezza di differenza. E la prima eruzione appunto di quella datata, si osservano questi depositi al di fuori della caldera dei Campi Flegrei. Perché dici al di fuori della caldera dei Campi Flegrei? Perché ovviamente all'interno le diverse eruzioni che hanno girato poi la caldera hanno fatto sì che hanno obliterato all'interno della caldera tutti i depositi, o comunque hanno rimaneggiati. Quindi questi depositi si osservano ovviamente tutti all'esterno della caldera, verso Napoli, verso l'Appennino, un po' più a nord. Perché brevemente, sì. Matteo, come funziona? Che cos'è una caldera? Che differenza c'è? Perché non è un vulcano? Allora, no, la caldera è, cioè, è un vulcano, una caldera, solamente che rispetto a un normalissimo edificio vulcanico ha subito una, diciamo, un'eruzione esplosiva, per lo più capita per lo più a livello esplosivo più che effusivo, perché c'è stato un, diciamo, un collasso. Quindi abbiamo questo bellissimo edificio, per esempio vediamo per esempio il Vesuvio, e intorno ha il Monte Somma. Il Monte Somma era un'antica caldera, poi all'interno di questa caldera un antico edificio, esatto, un antico edificio. Scusami, sì. È ricresciuto all'interno un vulcano, perché tutti i depositi che hanno iniziato a eruttare hanno formato questo nuovo edificio. E questo nuovo edificio, poi, se c'è stata una eruzione magari molto più forte, molto più imponente, ha fatto sì che nella carica magmatica il, diciamo, tutto il materiale è eruttato, quindi tutto il peso dell'edificio sovrastante è collassato tutto all'interno della camera magmatica. E infatti nei Campi Flegrei ci sono queste due caldere concentriche, quella la prima più antica, quella dell'Imbrite Campana 40.000 anni fa, e quella invece un po' più recente, verso 15.000 anni fa, del Tufo Giaro Napoletano. Tanto per dare un'indicazione a chi ci ascolta, che magari non è il collasso calderico, quello che stai descrivendo, cioè il fatto che dopo un'eruzione di tipo esplosivo si svuota quello che c'è, il serbatoio che c'è sotto, e l'edificio crolla su se stesso. Nel caso delle due eruzioni che hai appena descritto, gigantesche, ha fatto sprofondare probabilmente di circa 700 metri una volta e 600 un'altra, l'hai scritto te, sì, esatto. Questo edificio vulcanico, formando una caldera la cui dimensione, tanto per dare un'idea, prende tutta l'area orientale, sì, occidentale napoletana, cioè quindi va da Procida al Golfo di Napoli, comprende una parte del Golfo, stiamo parlando di una roba gigantesca. Sì, diciamo il diametro più grande delle Imbrie Campane è di 16 km, quello invece del Tufo Giaro Napoletano è di 10 km, quindi comunque sono molto grandi. E anche magari ne parlate prima, no? Dice anche il rischio vulcanico legato a quell'area, che lì si potrebbe girare un vulcano all'interno di quell'area, quindi è difficile capire da dove esce, se esce da una parte o dall'altra. E stavi citando appunto, sempre per dare un po' di didascalie, gli ignimbriti, nel senso collegate alla caldera, perché nello svuotarsi vengono emessi volumi enormi, chilometri cubi di materiale vulcanico appunto, e che possono produrre dei flussi piroclastici, che sono delle miscele di gas ad altissima temperatura e materiale vulcanico, quindi vetro ridotto in cenere appunto, in frammenti così piccoli che risultano come cenere, che poi vengono insieme anche a frammenti litici strappati dal condotto, insomma una miscela di gas ed elementi appunto che si chiamano juvenili e litici, che poi si saldano e formano questi depositi che si chiamano ignimbriti. Sì, esattamente. E quello che dicevamo, questi due eventi maggiori, Ignimbrite Campane e Tufo Giaro Napoletano, che però sono stati poi intervallati nella storia da numerosi altri eventi. Sì, assolutamente sì. Sì, queste erano solamente le eruzioni principali, ma ovviamente prima dell'eruzione dell'Imbrite Campana ci sono stati degli altri eruzioni, anche lì sempre molto esplosive, e successivamente all'Imbrite Campana, che diciamo che ha messo in posto una quantità di volume di magma, diciamo si può definire, che era spinto all'interno della camera magmatica. quasi insieme tra Gnimbrede Campana e Tuffo Giallo Napoletano, in totale il 98% di tutto il volume eruttato dei Campi Flegrei. Quindi diciamo, per questo ne parliamo molto ed sono molto importanti, perché rispetto alle altre eruzioni, che sono proprio diciamo delle dei soffitti, le altre eruzioni rispetto al Tuffo Giallo Napoletano e all'Imbrite Campana. Però sì, appunto, abbiamo la storia eruttiva. Continuando sulla storia eruttiva, successivamente al Tuffo Giallo Napoletano abbiamo diversi tipi di eruzioni che si dividono in tre epoche. Una tra i 15.000 anni fa, che quando avvenne l'eruzione del Tuffo Giallo Napoletano, fino a 9.500 anni fa. Un'altra tra 8.600 e 8.200 e l'ultima, la più recente, tra 4.800 e 3.800 anni fa. E, ovviamente l'ultima eruzione storica, anche osservata in qualche modo dall'uomo 4.000 anni fa, ormai era anche abbastanza antica come eruzione. L'ultima è del 1538, che ha formato proprio l'edificio di Monte Nuovo, che è un cono di scorie piccolino, ha messo in posto una quantità di volume molto molto ridotta rispetto appunto a tutte le altre eruzioni, e ha formato questo piccolo monte che si osserva ancora oggi ad ovest di Pozzuoli, che purtroppo ha generato solamente 15 nevi, che potevano essere anche risparmiate, ma perché la gente era molto curiosa ed è salita sul vulcano per vedere l'eruzione, ma ovviamente non ha lasciato superstiti, insomma, le persone che sono salite su. E giusto così, se questi due eventi maggiori diciamo appunto hanno messo in posto questi depositi, questi ignimbriti, fin dove sono arrivate? Nel senso, un evento così grande, fin dove vengono riscontrati attualmente i depositi, che ovviamente noi vediamo quello che è attuale, poi certo, esatto, noi vediamo solamente i depositi perché non c'eravamo appunto 40.000 anni fa, e si sono osservati appunto i depositi fino anche oltre l'Appennino. Quindi diciamo, questi depositi, questi flussi piroclastici hanno trasportato, erano così forti, d'altronde la colonna eruttiva per esempio dell'Imbrite Campana è arrivata fino a 44 km di altezza, quindi molto molto alta, e questi flussi molto caldi sono riusciti a oltrepassare anche l'Appennino, quindi ben 1000 metri sopra il livello del mare, cioè, insomma, rispetto a dove stesse il vulcano. Quindi erano delle, diciamo, un'eruzione mai vista prima, per questo viene definito il vulcano dei Campi Flegrei come un super vulcano, anche se noi geologi purtroppo non ci piace questa parola super vulcano, però per far capire che ha fatto delle eruzioni molto molto imponenti, e con depositi, anche le ceneri per esempio sono arrivate fino in Russia. Quindi pensando dall'Italia fino alla Russia, hanno fatto un bel viaggio, insomma, sicuramente. E questo ha portato anche, per esempio, alla riduzione della temperatura atmosferica tra i 5 e i 9 gradi, quindi veramente disastroso, che ha cambiato ovviamente tutta la fauna, sia quella italica, sia ovviamente quella anche dell'Asia settentrionale e dell'Europa settentrionale, e, cambiando sia la disponibilità delle acque, ma anche tutta la flora e la fauna che vive al loro interno. Questo ovviamente sono, diciamo, le differenze dei due tipi di depositi, tra flusso piroclastico, che è un flusso che comunque viaggia lungo il terreno e sì, appunto sulla è sulla super, lungo la superficie, ed è capace di superare ostacoli ed ha delle velocità notevoli, e può arrivare fino a 30 km al secondo, quindi velocità anche di più, anche a 100-200 km al secondo, ecco. Al secondo no, chilometri orari, scusate. Sì, metri al secondo, scusate, assolutamente, che però appunto insomma va veloce, sì. e rispetto appunto ovviamente a depositi che sono invece quelli di ricaduta, che appunto, come diceva Matteo, viaggiano in atmosfera trasportati dal vento. E, direi che possiamo fare un ulteriore... Facciamo una pausa. Volevo notare una cosa interessante, perché rileggendo la storia del vulcano e pure gli effetti, no, possibili che ci sono stati sul clima europeo e quello, effettivamente nella stessa epoca è proprio il momento di crisi c'erano già le popolazioni umane, sia contemporaneamente, poco prima di quel periodo lì vivevano in Europa centrale, centro-settentrionale, in Italia durante i periodi freddi, sia i Neanderthal, sia i nostri cugini Neanderthal sia i nostri i sapiens iniziali, si sente, si è scoperto, no, che si sono, che ci hanno avuto parecchi contatti e anche parecchi incroci. Effettivamente 40, e c'erano un sacco di grandi mammiferi, tant'è che le prime popolazioni, no, umane delle varie specie anche precedenti erano molto legate alle migrazioni di questi grandi mammiferi, tra cui l'elefante con le zanne dritte, i famosi mammut, insomma tutti. E effettivamente 40.000 anni fa, proprio un altro degli eventi, 40.000 anni fa ultimamente hanno proposto delle origini planetarie di questa grande scomparsa dei grandi mammiferi e della trasforma, eppure del Neanderthal, del nostro cugino. Così effettivamente l'ignimbrite campana sembra, cioè l'eruzione dell'ignimbrite campana a questo punto potrebbe entrarci. È un argomento da approfondire in futuro, da vedere, per un'emergenza del Pleistocene. Benissimo. Bene, facciamo ulteriore pausa e ci ascoltiamo Pistol Patchkin Mama di Al Dexter. And was I having fun? Until one night she caught me right, and now I'm on the run. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. She kicked out my windshield, she hit me over the head. She cursed and cried and said I'd lied and wished that I was dead. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. And dancing with a blonde, until one night she shot out the light. Bang, that blonde was gone. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. I'll see you every night, babe, I'll woo you every day. I'll be your regular daddy if you put that gun away. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. And was I having fun? Until one night she caught me right, and now I'm on the run. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Now there was old Al Dexter, he always had his fun. But with some lead she shot him dead, his hawking days are done. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing mama, lay that pistol down. Mentre cerchiamo di contattare Gianfilippo De Astis, ci ascoltiamo Alma Megretta. Una voce, una passione che ho amato. E allora questi erano Alma Megretta, Sanagone, Non te scordà, ma li sfumiamo perché abbiamo in linea Gianfilippo De Astis. Ciao Gianfilippo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Intanto ti ringraziamo per la playlist, perché è sua, quindi grazie prima di tutto per questo. Prego. E poi... E quindi con Gianfilippo De Astis del geofisico, vulcanologo degli ANGV, e andiamo a parlare invece, riprendiamo un po' quello di cui stavamo parlando con Matteo Furlan, ovvero un po' di storia evolutiva dei campi flegrei, perché ci serve ad inquadrare che tipo di vulcanismo abbiamo e che cosa ci possiamo aspettare. Quindi con te volevo rivedere un po', diciamo, le ultime fasi, quindi gli ultimi eventi, e poi appunto parlare un po' delle ultime crisi del bradisismo quest'ultimo, ma anche diciamo degli anni 70 e 80. Sì, certo. Da dove vuoi che inizi? Riniziamo allora, appunto. Dopo i 15.000 anni del tufo giallo napoletano che già Matteo ha menzionato. Sì, benissimo. A partire da 15.000 anni i campi flegrei sono caratterizzati da un cosiddetto vulcanismo monogenico, ossia da eruzioni singole che formano dei singoli apparati, piccoli apparati, piccoli medi apparati, che si distribuiscono all'interno della caldera o vicino ai bordi della caldera. Il Monte Nuovo, che ha citato sempre Matteo, è l'ultimo di questi apparati, di questi conetti che si formano all'interno della caldera dei Campi Flegrei, ma in precedenza sono circa 70 le eruzioni, un po' anche qualcosa in più, 73-74 le eruzioni che sono state identificate all'interno dei Campi Flegrei. E queste 70 eruzioni però non si distribuiscono omogeneamente nel tempo, ma si concentrano in alcune fasi che sono poi separate da periodi anche lunghi, più o meno lunghi, anche questi sono variabili, di stasi del vulcanismo. Quindi c'è una prima fase che finisce intorno a 9.000 anni, dura da 13.000 fino a 9.000 anni, poi le età, diciamo, vengono sempre limate con l'evolversi delle conoscenze vulcanologiche. Dopo questa prima fase, che viene chiamata prima epoca eruttiva, si distinguono tre epoche eruttive, quindi c'è un periodo di stasi che infatti è contraddistinto dalla formazione di un paleosuolo, cioè un suolo che ricopre molti dei depositi vulcanici precedenti. Poi intorno a 8.000 anni, tra 8.500 e poco meno di 8.000 anni, c'è la seconda epoca eruttiva, e poi c'è qui una stasi piuttosto lunga, 5.500 anni fino a 3.800, c'è la terza epoca eruttiva. In questa terza epoca eruttiva si verificano una sequenza piuttosto intensa di eruzioni esplosive. Non ci sono eruzioni effusive, sì, no, si formano alcuni duomi. Monte Olibano, per esempio, è un duomo di lava, Accademia, vabbè, inutile che dire tutti i nomi. Comunque, ecco, all'interno di questa terza epoca eruttiva si verifica un'eruzione che è particolarmente significativa, quella a più alta energia del vulcanismo intracalderico, che si chiama Agnano Montespina. Poi alla fine, al termine di questa terza epoca eruttiva, c'è un prolungato periodo di stasi che arriva di oltre 3.000 anni, quindi, che arriva fino alla formazione del Monte Nuovo, che è l'ultima eruzione storica che noi conosciamo. Il bradisismo è un fenomeno che diciamo, ha caratterizzato l'area della caldera da sempre, anche da prima del verificarsi di queste tre epoche eruttive, perché per esempio abbiamo un terrazzo marino ai Campi Flegrei che è alla quota di 50 metri sul livello del mare, quindi è stato sollevato fin lì. Quella è la testimonianza, diciamo, più importante che abbiamo. Poi abbiamo la testimonianza di quello che si è verificato in epoca greco-romana, con appunto le ville romane che adesso sono nel Golfo di Pozzuoli sott'acqua, i pavimenti di quelle ville a 8 metri di profondità, oppure l'esempio più classico di questo fenomeno è proprio collocato a Pozzuoli, che è sempre stato, diciamo, il punto nevralgico del fenomeno bradisismico, che è rappresentato dal tempio, il cosiddetto Tempio di Serapide, che poi tempio non era, era un mercato romano, un macellum. In quel resto romano con le colonne che sorge proprio in prossimità del pozzo del porto di Pozzuoli, si vedono i buchi dei litodomi, dei organismi marini che hanno forato le colonne e che indicano come quel pavimento che adesso è emerso è andato su e giù però ripetutamente nel corso degli ultimi 2000 anni, e quindi ci sono periodi di sollevamento e periodi di abbassamento, di lento abbassamento, che i geologi chiamano subsidenza. E che indicano, sì, appunto, come indicano questo fenomeno, il fenomeno dell'abbassamento o sollevamento del suolo, perché quando quelle colonne sono state sott'acqua, sono state attaccate da questi organismi marini che li hanno perforati, e poi quelle colonne sono andate su e sono rimasti i buchi degli organismi marini, insomma, di un tempo. Quindi quello è l'esempio più, diciamo, eclatante, dove si portano sempre gli studenti, dove si portano chiunque, i curiosi, i turisti, chiunque voglia capire il bradisismo, gli si porta a vedere questo antico mercato romano che sta appunto al centro di Pozzuoli. E poi da lì, vabbè, c'è una scala cronologica che si trova sui libri, dove si vedono proprio le curve di abbassamento e di sollevamento, arriviamo fino ai bradisismi che citavi tu degli anni 70 e poi degli anni 80. Ecco, dal 70 al 72, sì, dimmi. Sì, no, ti chiedevo in maniera un po' più dettagliata, appunto, questi due eventi, come sono stati gestiti, anche come sono stati sentiti dalla popolazione? Beh, sono stati degli eventi naturalmente molto problematici, perché allora possiamo fare due considerazioni. La prima è che fino agli anni 50 del secolo scorso, fino al 1950-1955, nessuno parlava di caldera, nessuno riconosceva nei Campi Flegrei una caldera. È stato Rittmann, un famoso vulcanologo e geofisico, che ha suggerito l'esistenza di una caldera. E poi da lì, a partire da questa prima citazione, che era corredata di ancora pochi dati, sono partiti gli studi sull'ignimbrite campano, sul tufo giallo napoletano, però prima si credeva sostanzialmente a un'area vulcanica attiva con però delle eruzioni modeste che comunque sono quelle che caratterizzano tutto l'Olocene, cioè gli ultimi 10.000-15.000 anni. E nelle due... Poi un'altra cosa che possiamo dire è che i Campi Flegrei si sono evoluti da un punto di vista urbanistico e anche abitativo in maniera esponenziale, possiamo dire, nel secolo scorso, perché all'inizio del Novecento, se si guardano le mappe, c'erano pochissime case, pochissimi centri abitati, la stessa Pozzuoli era molto piccolina, e allora costruirono l'industria siderurgica di Bagnoli, che è proprio sul bordo della caldera, vicino al bordo a Posillipo, cioè tra Posillipo e Pozzuoli, e c'era, hanno costruito una immensa industria siderurgica che è stata attiva per 80 anni, dal 1910 fino al 1990, poi è stata dismessa per ragioni economiche, puramente economiche, non per ragioni ambientali o perché si intuiva veramente la pericolosità e quindi il rischio collegato a questa pericolosità dei Campi Flegrei. Negli anni, quindi in quegli anni lì, è stato costruito tutto a Bagnoli, per esempio 8.000 operai, è stata la massima forza lavoro raggiunta da quell'industria, e c'erano 8.000 operai con le loro famiglie, e chiaramente hanno costruito Bagnoli, Pozzuoli si è estesa ulteriormente. Adesso abbiamo 550.000 abitanti che vivono su un vulcano, non è neanche intorno al vulcano come il Vesuvio, vivono proprio sopra il vulcano. Questa è una cosa che bisogna dire. Questa è la particolarità proprio, sì, della zona. Negli anni 70 e poi anche negli anni 80 i quartieri più colpiti furono il Rione Terra di Pozzuoli, poi il lungomare di Pozzuoli, cioè il centro storico di Pozzuoli, e il Rione Terra, che era il rione dei pescatori di Pozzuoli, e furono decise usando l'esercito delle evacuazioni pressoché immediate, perché di migliaia di persone furono, credo che nel 1983 furono portate via da Pozzuoli 6.000 persone con la polizia e l'esercito in 2-3 giorni, eppure non c'era nessuna, diciamo, eruzione in corso, per fortuna, e nessuno sapeva dire se quelle crisi sarebbero sfociate in una nuova eruzione oppure no. Non avevamo conoscenze scientifiche né un apparato di sorveglianza come quello che abbiamo attualmente. All'epoca c'erano solamente i sismografi, i sismometri, anzi, che poi portavano i loro dati ai rulli, ai sismometri, e si facevano dei controlli prevalentemente sui gas. Le deformazioni si controllavano con le livellazioni, non era ancora l'epoca dei GPS, delle misure satellitari, quindi tutto era molto più lento, l'acquisizione dei dati era molto più lenta, più laboriosa, era più difficile, quindi alcune decisioni dovevano essere prese più sull'onda dell'ordine pubblico, ecco, il fatto essenziale era che gli edifici, le abitazioni, i palazzi subivano comunque una tale sequenza di scosse, quindi nel crescendo di queste scosse, che raggiungevano alcuni giorni 500, 400, 500 scosse al giorno, superficiali, quindi avvertite benissimo dalla popolazione, i palazzi si danneggiarono ed era, diciamo, necessario alla fine, anche semplicemente per quel motivo, evacuare le persone. Ecco che leggo anche dal sito degli NGV, dall'Osservatorio Vesuviano, che comunque durante queste due crisi il suolo si è sollevato comunque di 170 centimetri durante la prima crisi e 185 durante la seconda. Più o meno altezze simili, una volta 175, una volta 185. Sì, che comunque per un totale di circa 3,5 metri, che è sicuramente... La cifra che viene data è 3,5 metri. E per esempio questi 3,5 metri adesso, con il sollevamento attuale, sono stati superati già. Cioè il livello massimo raggiunto nell'ultimo bradisismo del 1983-84 è stato c'era stata poi una subsidenza, ma con il nuovo sollevamento in atto, quello che è in atto di cui avete parlato all'inizio, quell'altezza massima è stata superata, credo quando si è arrivati a quota 90, quindi siamo sopra di 25 centimetri. Sì, adesso dopo l'ultimo sollevamento appunto dell'85, poi c'è stato un periodo di subsidenza, nel senso il suolo si è riabbassato fino al 2005, si è riabbassato, e poi dal 2006 è ricominciata una nuova fase di sollevamento. Ecco, la grande differenza rispetto ai bradisismi precedenti è che questo è andato molto lento, perché è iniziato alla fine del 2005, inverno 2006 praticamente, ed è durato fino ad oggi, quindi in un arco temporale molto diverso da quegli altri, dove quei sollevamenti di cui abbiamo detto sono stati toccati in soli 2 anni. Quindi il fenomeno era proprio diverso. Mentre quindi rispetto... Quindi però in questo periodo c'è stata un'accelerazione di questo fenomeno, nel senso quello che noi vediamo dalle reti di monitoraggio, quindi poi volevo affrontarlo magari dopo un'altra breve pausa, come viene monitorata la situazione, ma senza dubbio queste crisi sismiche che vengono riscontrate, sentite, quindi avvertite, corrispondono a un'accelerazione anche del bradisismo o comunque allo stesso trend? Sì, corrispondono a un'accelerazione. Anche in questo caso l'accelerazione, diciamo, è andata a strappi. È stata in questi 17-18 anni, dal 2006, è andata a strappi. Ci sono state fasi di sollevamento lento e progressivo, poi anche dei momenti di stasi e poi delle accelerazioni. Ecco, la cosa che ha cominciato a destare preoccupazione è il fatto che effettivamente dal 2018-2019 il sollevamento ha cominciato a diventare più veloce fino a raggiungere quei 15 mm al mese che c'è da gennaio. Sì, l'avevo letto prima sul. Ma ho letto, cioè, sentendo in giro durante queste, appunto, durante le varie insomma, attivazioni sismiche maggiori che comportano appunto l'incremento del livello d'allerta, se non altro di attenzione pubblica, varie ipotesi sulla causa, no? So che ci sono varie ipotesi, insomma, non è chiaro il motivo per cui. Non è univocamente chiaro il motivo per cui avviene, che cosa sta avvenendo e dove sta avvenendo, se nella camera magmatica, se è più alto, più basso, se è dovuto alla risalita di gas, deformazioni. È difficile spesso da esterno totalmente orientarsi nel magma, in questo caso di informazioni che derivano dalla cosa, è battutona. E quindi non lo so, tu che opinione. Tu l'INGV, insomma, il gruppo di lavoro di cui fai parte, che opinione hai rispetto, non ovviamente sulla pericolosità, soltanto sulla genesi, sulle cause di questo fenomeno in corso, ad esempio? Allora, i dati geofisici che esistono, cioè, quindi sono tutti dati indiretti, perché noi non abbiamo, sono stati fatti delle perforazioni negli anni 70, anni 60, 70, fino agli anni 80, in vari punti della caldera, una delle quali ha toccato 3.000 metri, per esempio, però è parecchio decentrata rispetto a Pozzuoli e non è stato incontrato magma. Neanche, diciamo, sono state temperature elevate, naturalmente erano crescenti andando in profondità, ma non elevatissime. Poi è stato fatto un ultimo pozzo molto di recente che è arrivato a 500 metri e questo sì è stato invece tra Bagnoli e Pozzuoli, vicino Bagnoli credo, tra Bagnoli e Pozzuoli. Anche quello di 500 metri naturalmente non ha trovato nessuna magma così nel buco, ecco, nella carota. Il motivo quindi del sollevamento. Sì, scusami, da dati quindi geofisici più o meno. Invece i dati geofisici, diciamo, ci danno delle informazioni indirette sul comportamento delle rocce. Uno dei dati, diciamo, su cui sono quasi tutti d'accordo, che tutti riportano senza litigare, senza distinguo, ecco, tra anche gruppi di lavoro diversi, è che ci sia una camera magmatica profonda tra 7,5 e 8,5 chilometri di profondità. Una camera magmatica grande, spessa quindi circa un chilometro o poco più, che è un sill, cioè una tavola, immaginiamola come una tavola, un parallelepipedo magari che poi sfuma sui suoi bordi, una campana molto schiacciata, anche potremmo immaginarla così, che è di magma a quella profondità lì. E questa è la camera magmatica profonda che si estende oltre che nel Golfo di Pozzuoli, cioè sotto il Golfo di Pozzuoli, anche verso il Golfo di Napoli, tant'è che viene identificata come una camera magmatica quasi comune tra i Campi Flegrei e il Vesuvio. Poi però i due sistemi sono indipendenti, chiariamolo, e uno è un vulcano a condotto centrale, il Vesuvio, e l'altro invece è un vulcano, una caldera con molteplici dicchi di alimentazione che ci sono stati, diciamo, nel corso del tempo. E la cosa, diciamo, diventa invece più difficile, e qui sì, ci sono i distinguo, sulla presenza di camere superficiali comunque che vengono identificate a circa 4 chilometri di profondità, 3 chilometri e mezzo, 4 chilometri di profondità, però molto piccole, dei patch di magma, cioè delle sacche di magma molto piccole che stazionerebbero a quella profondità là. Però ecco, già su questo non c'è unanimità di vedute, però c'è una certa concordanza, diciamo una maggioranza degli scienziati ritiene che queste sacche di magma a quella profondità possano esserci. Comunque sia, perché gli ipocentri, di questi ultimi sismi, stanno di questa ultima attività sismica, sono insomma più superficiali. Poi ecco, questa è una delle, mi sembra, no? Stavano intorno ai 4-5 km. Sì, però ecco, i sismi al momento sono tutti dovuti al gas, al passaggio dei gas e alla spinta del gas che rigonfia la crosta più superficiale e frattura le rocce e quindi produce i terremoti. Questo è certo. Noi non abbiamo, nessuno ha mai detto, può dire che almeno da 4 km in poi ci siano stati dei movimenti o una tipologia di sismi che indica il movimento di magma. Questo non lo dice nessuno. Ok, no, era solo per chiarire, perché è un dato acquisito, al momento è un dato acquisito. Sì, era solo per chiarire in modo più, per chi ci ascolta, che comunque magari c'ha parenti oppure viene da lì e vive a Roma, che noi siamo ascoltati più a Roma, però insomma non si sa mai con le altre tecnologie, dal DAB al coso, vediamo diffusi in tutto il mondo, e quindi può darsi che, appunto, giusto per chiarire meglio, perché c'è stata da osservatore esterno, avevo percepito io, che poi un pochetto ne dovrei masticare, un po' di confusione. Sì, che poi io volevo chiedere invece in termini più generali come si fa il monitoraggio, nel senso, un vulcano del genere, un vulcano lo stesso che si fa anche sul Vesuvio o in zone vulcaniche attive, quali sono appunto i settori che si studiano? Abbiamo parlato di terremoti, abbiamo parlato di gas, quindi se ci puoi fare brevemente, e prima di affrontare, diciamo, l'aspetto di protezione civile, che anche se siamo in chiusura quasi volevo vedere, però se ci facevi brevemente un excursus su come viene fatto il monitoraggio di un vulcano attivo. Sì. Allora, innanzitutto posso dire che attualmente i Campi Flegrei sono a un livello di allerta giallo, quindi livelli di allerta in Italia sono tutti uguali per tutti i vulcani, anche se poi vengono descritti in maniera differente, perché ogni sistema vulcanico ha delle sue peculiarità. però c'è il livello verde che è di base, vuol dire quindi attività ordinaria o inattività del vulcano, e poi c'è giallo, arancione e rosso. Il Campi Flegrei sono il livello di allerta giallo, quindi anche questo l'ha detto Lorenzo credo prima, è un livello di attenzione. Quando c'è il livello di attenzione, l'INGV o gli eventuali altri centri di competenza che aiutano la protezione civile è tenuto a potenziare il proprio sistema di monitoraggio e i mezzi investiti su quella certa area vulcanica. Lo stesso è avvenuto per esempio all'Etna in varie fasi quando ci sono state le fontane di lava, lo stesso è avvenuto a Stromboli quando ci sono stati i parossismi del 2019 e è avvenuto anche ai Campi Flegrei. Però di base tutti i vulcani, compresi i Campi Flegrei, sono monitorati da una rete multiparametrica, si dice. Quindi c'è una rete sismica distribuita all'interno della caldera, c'è una rete delle deformazioni con tiltmetri e GPS che è distribuita all'interno della caldera dei Campi Flegrei. Ci sono delle stazioni che monitorano il flusso di gas in continuo e in più si fanno delle campagne frequenti di campionamento dei gas per vedere la temperatura, per vedere le specie chimiche che sono coinvolte, perché ce ne sono alcune che sono prettamente magmatiche. Poi adesso si usano anche i satelliti e si usano anche le reti gravimetriche per fare la microgravimetria e vedere eventuali movimenti, anomalie positive o negative del campo di gravità. E credo di averli detti tutti quelli che ci sono, i metodi che sono coinvolti. Eh sì, bene, bene. Quindi tutto questo apparato.